Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi non ha mai parlato, diciamo, di Rutto Libero non conosce questo spezzone del film, di uno dei tanti film di Paolo Villaggio alias Fantozzi. Ci ha lasciato oggi, 84 anni, e lui ha rivoluzionato non solo, diciamo, l'archetipo sociologico e quindi anche un modo di fare cinema, ma anche sicuramente il linguaggio. Lo stesso termine aggettivo fantozziano, no, che non ha mai usato in vita propria, fa parte ormai anche del dizionario Treccani. Ne parleremo naturalmente diffusamente, sarà ospite anche per ricordarlo Lino Banfi stasera qui Effetto Notte, e fra le altre cose parleremo anche di nuovo del caso del bambino Charlie, bambino di 10 mesi in Gran Bretagna attaccato alle macchine, che medici e giudici ormai hanno deciso di staccare perché dicono non c'è nessuna speranza di sopravvivenza. Ma sapete che i genitori si battono da tempo perché possa andare avanti, perché possano fare delle terapie sperimentali negli Stati Uniti. Bene, è intervenuto sia Trump su questo, sia il Bambin Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico, che ha detto noi potremmo accoglierlo anche per accompagnare i genitori, insomma, fino a quando il bambino riuscirà a vivere. E avremo ospite qui la presidente proprio del Bambin Gesù. Insomma, un sacco di temi come sempre, tanto per iniziare la settimana di Effetto Notte. Per voi sempre la pagina del programma, pagina Facebook a vostra disposizione per i vostri commenti, le vostre osservazioni, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Prima riassunto della giornata e poi i vari argomenti da approfondire con gli ospiti. Allora andiamo con il racconto. Immigrazione: Francia e Spagna sono contrarie agli sbarchi nei loro porti. Bruxelles presenta domani le nuove misure concrete sui migranti. Stati Uniti: un taxi ha investito un gruppo di pedoni all'aeroporto di Boston, provocando vari feriti. Il caso del piccolo Charlie: Trump si offre di aiutarlo e l'ospedale Bambin Gesù di Roma valuta la possibilità di accogliere il bimbo per il tempo che gli resterà da vivere. Ospite Effetto Notte la presidente dell'ospedale. Politica italiana: alta tensione nel PD sulle alleanze. Renzi prepara la direzione di giovedì. Spagna: italiano 32enne trovato morto a Valencia, fermato un amico. L'incendio del grattacielo a Londra: è stato identificato il corpo di Gloria Trevisan, la ragazza padovana che morì nel rogo della Grenfell Tower. Spagna: addio a Paolo Villaggio, il geniale Fantozzi. La Camera Ardente sarà mercoledì in Campidoglio. E partiamo quindi dalla questione migranti. Domani dovrebbero arrivare delle proposte concrete da Bruxelles e mentre l'Italia continua a fare pressione su questo tema, Francia e Spagna si sono dette contrarie all'idea di permettere lo sbarco nei loro porti. È tutta in salita la strada verso Tallinn in Estonia, dove tra giovedì e venerdì si terrà l'incontro informale dei ministri dell'interno dell'Unione Europea e si dovrebbero ridiscutere le regole con cui vengono soccorsi i migranti nel Mediterraneo. Da Bruxelles non nascondono le difficoltà. L'ipotesi di far sbarcare i migranti soccorsi nel Mediterraneo in porti non italiani è il nodo più difficile da sciogliere. Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere. C'è anche una legittima richiesta del governo italiano. Nel momento in cui però ci chiedessero di sbarcare le persone in altri paesi, magari con viaggi di diversi giorni, non potremmo non denunciare le conseguenze umanitarie di queste nuove misure. L'altro importante nodo riguarda la solidarietà finanziaria dei Paesi membri per frenare alla radice il fenomeno migratorio. Inizialmente la Commissione europea aveva stanziato 1,8 miliardi di euro in quell'area, chiedendo agli Stati membri di fare altrettanto. Ma dai governi dei 28 sono arrivati finora soltanto spiccioli, 89 milioni di euro. Infine il nodo dei rifugiati. Il presidente francese Macron ha sottolineato anche oggi che i profughi non vanno confusi con i migranti economici, ma Roma insiste che vengano ridefiniti i confini della definizione di chi ha diritto all'asilo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in vista del G20 di Amburgo, Trump oggi ha avuto contatti con i leader europei. all'attacco contro i media, provocatorio con la Cina, diplomatico con l'Europa. Alla vigilia della festa dell'indipendenza, il presidente americano Donald Trump offre un caleidoscopio di sfaccettature che alimentano i già numerosi punti interrogativi sul suo stile di governo. Dopo un weekend burrascoso sul fronte interno e su quello internazionale, Trump ha aperto la settimana chiamando i principali leader europei. Oltre alla cancelliera tedesca Merkel e al presidente francese Macron, il leader americano ha avuto una conversazione col premier italiano Gentiloni, con cui è ripartito dal G7. Secondo fonti di Palazzo Chigi, entrambi i leader hanno convenuto sull'importanza degli sforzi messi in campo e delle intese raggiunte a Taormina, risultati che costituiscono una buona base per la discussione che si terrà alla G20 di Amburgo. Al di là delle politichese, resta da capire, lotta al terrorismo e spirali sul commercio a parte, quali risultati del G7 possano essere considerati buone basi. A casa, Trump prosegue la propria crociata contro le testate giornalistiche. Il video postato su Twitter, in cui stende e picchia un uomo col volto coperto dal logo della CNN, non ha fatto ridere nessuno, ma il presidente americano non indietreggia, anzi inonda il web di nuovi messaggi contro i media e le fake news, fino al fronte aperto con la Cina. Pechino non ha gradito l'incursione della nave militare americana USS Stidor nei pressi dell'isola di Triton, contesa a Pechino da Vietnam e Taiwan. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso passiamo al caso del piccolo Charlie in Gran Bretagna. Anche Donald Trump, il presidente americano, appunto, interviene sulla vicenda offrendo aiuto. Se possiamo aiutare il piccolo Charlie Gard, twitta Trump, come i nostri amici in Gran Bretagna e il Papa, saremo felici di farlo. E la prima ministra britannica, Theresa May, dice che tutti i nostri pensieri sono con Charlie e la sua famiglia. E in Italia la presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, Mariella Enoch, ha chiesto di verificare con il Great Osmond Street Hospital di Londra se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie, dicendosi disponibile ad accogliere il bambino presso di noi per il tempo che gli resterà da vivere. Come vi dicevo, la presidente del Bambin Gesù sarà ospite tra poco qui a Effetto Notte. Stati Uniti, sarebbe un taxi il veicolo che ha investito un gruppo di pedoni all'esterno dell'aeroporto di Boston, lo riferiscono i media americani. Dalle immagini della TV locale si vede l'auto schiantata contro un edificio e vicino a dei tavoli da picnic a poca distanza da numerosi altri taxi bianchi parcheggiati. Ci sarebbero vari feriti. La polizia sta interrogando il conducente. Per il momento non mi sembra di vedere aggiornamenti. Sapete, nel caso, fino alle 22 abbiamo tempo per darne. E poi la politica italiana adesso, che è dominata sempre dal dibattito a sinistra. La necessità è la legge elettorale maggioritaria, torna a ribadirlo Andrea Orlando, che sfida Matteo Renzi all'interno del PD. Per il ministro della giustizia i Dem devono costruire un clima diverso con la sinistra di Pisapia e Bersani. Orlando definisce strana l'irritazione di Renzi sulla proposta di referendum interno su un'eventuale intesa con Silvio Berlusconi, ma da parte del segretario PD c'è un clima di sospetto, soprattutto nei confronti di Massimo D'Alema, che accusa di manovre su un'altra scissione. E la linea del Nazareno è chiara: non inseguire Insieme di Pisapia, un'operazione mediatica che non ha grandi consensi. Intanto la direzione si riunisce giovedì e i nodi verranno fuori, soprattutto su come e con quale legge andare al voto. C'è poi l'affondo di Emiliano sulle banche venete. Il decreto è invotabile, dice il governatore della Puglia, perché tradisce i risparmiatori, abbandonando al loro destino centinaia di migliaia di piccoli azionisti. Nel Movimento 5 Stelle invece Beppe Grillo se la riprende con Bruxelles. Il fiscal compact è una truffa semantica, economica e morale, dice ad un convegno sull'eurozona riguardo al pareggio di bilancio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora il tema del lavoro. In Italia è stato un maggio nero. Diminuiscono gli occupati a maggio, primo calo congiunturale dopo 8 mesi. L'Istat stima 51.000 occupati in meno quest'anno nel mese di maggio rispetto al mese precedente, aprile, e 141.000 in più rispetto all'anno precedente, a maggio 2016. Il tasso di occupazione perciò si attesta al 57,7%. Risultano in aumento ad aprile solo gli occupati ultracinquantenni e i dipendenti con contratti a termine. Non si può ancora leggere come un'inversione di tendenza, spiega Silvia Loriga, ricercatrice Istat. Non interpreterei questo dato come un cambio di rotta, in quanto ad esempio per quanto riguarda l'occupazione osserviamo un calo nell'ultimo mese. Questo calo viene dopo una crescita consistente nel mese precedente, quindi sostanzialmente allineati a due mesi fa. Torna a crescere anche il tasso di disoccupazione a maggio all'11,3% dopo il forte calo di aprile. Abbiamo un'alternanza, un trend di decrescita abbastanza visibile dall'inizio dell'anno. In particolare cresce la disoccupazione tra i giovani, che sale al 37%. Rispetto ad aprile, inoltre sono in 25.000 i giovani in più nella fascia tra i 15 e i 24 anni in cerca di occupazione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torna a crescere invece a due cifre il mercato dell'auto in Italia. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno le immatricolazioni sono state il 12,88% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Torniamo all'estero, in Spagna, perché un barista 32enne di Ferrara, Marcello Cenci, è stato trovato morto strangolato nella notte tra sabato e domenica a Valencia. Il corpo senza vita del giovane, che si era da poco trasferito in Spagna per lavoro, è stato ritrovato poco distante dalla casa in cui abitava. Sul corpo ci sono evidenti segni di una violenta aggressione. Un ex amico della vittima, suo coetaneo, Eder Guardarelli, è stato fermato a Ventimiglia, accusato dell'omicidio. Cenci era già stato aggredito diverse volte in passato da Guardarelli, brasiliano adottato da una famiglia ferrarese, pare per motivi sentimentali. Adesso parliamo sempre restando all'estero, dell'incendio del grattacielo a Londra, perché ormai è ufficiale, il corpo di Gloria è stato ritrovato. A dirlo è Maria Cristina Sandrina, che è avvocata della famiglia di Gloria Trevisan, vi ricordate, la ragazza di Campo San Piero coinvolta nell'incendio della Grenfell Tower a Londra lo scorso 14 giugno. La famiglia è stata contattata dalla Farnesina il 23 giugno, dice l'avvocata, per la comunicazione del riconoscimento del corpo avvenuto tramite le impronte dentarie. Femminicidi e orfani. In soli sei mesi del 2017 il femminicidio di 48 donne ha causato anche 30 nuovi orfani, che si vanno a sommare agli altri 1600 stimati dal 2000. Lo sottolinea l'associazione Dire, che è Donne in Rete contro la Violenza, alla vigilia della discussione in commissione della proposta di legge, in commissione parlamentare della proposta di legge a tutela degli orfani speciali, cioè gli orfani dei femminicidi. L'addio a Paolo Villaggio, è morto questa mattina a 84 anni, il ricordo della sua Genova nelle voci raccolte da Andrea Ferro. Lui aveva il diabete, che si è curato poco, quindi delle patologie del diabete che si sono aggravate, lo sapeva, non ha fatto niente per impedirlo. Ora è libero di nuovo, divagare con la sua mente, poi dove è volato non lo sappiamo. Sono Elisabetta e Pierfrancesco, i figli, a raccontare ai giornalisti gli ultimi giorni difficili di Paolo Villaggio, passati prima a Policlinico Gemelli, poi in una clinica privata romana dove era ricoverato dai primi di giugno e dove questa mattina alle 6 è spirato. Genovese, classe 1932, Paolo Villaggio avrebbe compiuto 85 anni a dicembre. Per lui nessun funerale religioso. Nel caso avrebbe preteso San Pietro, come spiegano sorridendo i figli. Sì, lui questo diceva. Sì. Siamo in chiesa, voglio San Pietro. In suo onore sarà invece aperta mercoledì una camera ardente in Campidoglio. In serata poi, sempre a Roma, si terranno cerimonia laica al Teatro all'Aperto Ettore Scola di Casa del Cinema. Autore, scrittore, attore, Paolo Villaggio è diventato un monumento nazionale grazie a personaggi come Professor Kranz, Fracchia e il celeberrimo Fantozzi, ma ha recitato anche con Fellini, Olmi, Monicelli, l'Archibugi, ottenendo premi prestigiosi dal Davide Donatello al Nastro d'Argento, al Leone d'Oro alla Carriera. A farlo entrare nella cultura popolare però è stato lui, il ragionier Ugo. Fantozzi ci rappresenta tutti, ci umilia, ci corregge. Con lui tutte le persone anonime hanno trovato il loro signore, afferma Roberto Benigni. Così Milena Vukotic, la leggendaria Pina, moglie di Fantozzi. Questa sua maschera, che rimarrà nella storia del cinema, non è che disegnasse un personaggio prettamente italiano. Credo che lui fosse andato oltre, appunto perché era un personaggio universale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un personaggio universale, ne parleremo anche con Lino Banfi, tra poco qui Effetto Notte. Per chiudere, i prodigi del progresso, della ricerca, vogliamo chiamarli, venerdì uscirà dalla fabbrica di Tesla Motor la prima Model 3, l'auto elettrica pensata per il mercato di massa, lo ha annunciato l'amministratore delegato Elon Musk, affermando su Twitter che la produzione della Model 3 aumenterà in modo esponenziale dopo il suo debutto. Musk ha annunciato che 100 auto saranno prodotte ad agosto, 1500 a partire da settembre e 20.000 da dicembre. La Model 3, che costerà circa $35.000, potrà percorrere circa 350 km senza dover essere ricaricata. come se non bastasse, il suo ex socio Peter Thiel, cofondatore di PayPal, fa a sua volta notizia perché con un finanziamento da $100,000 rispetto a un capitale necessario stimato in 2,7 miliardi di dollari, intende finanziare un progetto che cerca di riportare in vita un animale preistorico, il mammut lanoso, una specie particolarmente adatta a sopravvivere al freddo ed estinta circa 10.000 anni fa. Era caratterizzata da una folta pelliccia, orecchie piccole, zanne lunghe, e lui lo vuole riportare in vita. Bisogna dire, ne sentivamo certamente la mancanza. E con questo ci fermiamo perché c'è la viabilità, i vostri messaggi molti sono relativi a un ricordo di Paolo Villaggio, Emanuele per esempio, anzi Alessandro da Pieve Emanuele, scusate, vicino Milano, dice: siamo tutti figli di Paolo Villaggio, giovani nati tra i 70 e gli 80, lo vedevamo sulle TV private, il giorno dopo a scuola lo ripetevamo durante l'interrogazione, ciao grande Paolo, non dimenticare il lascia passare, tra parentesi fracchia la belva umana di lì. Riprende la citazione. 349-238-6666, questo è il numero per WhatsApp e SMS, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, lo sapete lì per voi, giorno e notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vi ho fatto appena adesso quindi il riassunto come sempre delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, Roberto Giordano sempre con voi, siamo insieme come sapete tutte le sere sino alle 22, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, la colonna sonora, la vostra colonna sonora per essere costantemente aggiornati su tutto quello che è successo di più importante. Vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, molti ricordi appunto dicevo relativi a Paolo Villaggio. Per esempio Giuseppe da Roma dice: con Paolo Villaggio addio la comicità, riposa in pace, ci mancherai. Cristiano dice: l'idea che i perdenti siano in fondo più umani, teneri, originali e veri di tanta sciatteria e miseria naturale messa in pompa, Fantozzi è molto più di un film, è un affresco umano e sociale di rara intelligenza. Giorgio dice: la sua comicità assieme è articolata ma molto molto diretta ed esperibile, scrive Giorgio. Ce ne occuperemo tra pochissimo. Adesso però vi ricordo, se non avete acceso puntualmente, le notizie più importanti della giornata. Migranti, no di Francia e Spagna ad aprire i loro porti. La Commissione europea annuncia per domani nuove misure concrete. E poi addio a Paolo Villaggio, il rivoluzionario della comicità. Benigni dice: è stato il più grande clown, Fantozzi ci rappresenta tutti. Tensione nel PD sul decreto banche. Per Emiliano, presidente della Regione Puglia, è invotabile. Ci sono 700 emendamenti al testo. E poi maggio nero per il lavoro. In Italia più disoccupati e meno occupati. La prima flessione da 8 mesi. L'ospedale Bambino Gesù di Roma pronto ad accogliere il piccolo Charlie, ne parleremo con la presidente dell'ospedale. Intanto Trump dice: aiutiamolo se possiamo, come fanno Gran Bretagna e il Papa. E poi sempre Trump che si prepara al G20, vedrà Putin dopo il Russia Gate, intanto chiama Gentiloni, dice bisogna ripartire dagli accordi di Taormina. Una notizia di cronaca nera che viene dalla Spagna, un 32enne italiano ferrarese trovato strangolato a Valencia, un suo ex amico che lo aggredì è stato fermato a Ventimiglia. E poi ecomafia, il business da 13 miliardi l'anno, parleremo anche di questo. Dunque camuffiamo la voce, molletta, molletta, molletta, patata. Patata, apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga, asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tingiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. Nella conca! Svedese! Muovi! Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. E vorrei iniziare quindi questa puntata con il primo tema di questa puntata, non con la politica, non con le vicende internazionali, con la cronaca nera. Sapete che i fatti a Effetto Notte sono sempre tantissimi da raccontare, ma con una grande perdita che è la scomparsa di Paolo Villaggio, perché Paolo Villaggio, come ha detto Roberto Benigni ricordandolo, è stato il più grande clown della sua generazione, e ha detto: Fantozzi ci rappresenta tutti, lui stesso. Villaggio, una delle sue ultime interviste, diceva di sé del suo personaggio archetipo, cioè il ragioniere Ugo Fantozzi, diceva: Fantozzi è un subitore perfetto, ha liberato tutti dalla spiacevole sensazione di sentirsi unici nel proprio essere sfigati. Era come una seduta terapeutica, diceva Villaggio di Fantozzi. Gli spettatori seguivano le sue avventure e pensavano: forse è vero, siamo tutti così. Ecco, diciamo che soprattutto in questo Villaggio è riuscito a distinguersi in mezzo a tanti altri, seppur magari anche loro grandi, però ha rivoluzionato, diciamo, l'immaginario sociologico, cinematografico, anche lessicale, di cui poi parleremo. Però adesso voglio coinvolgere un altro grande, che è Lino Banfi. Buonasera, Lino. Ciao, buonasera a tutti. Allora, anche tu hai fatto tanti ruoli, però diciamo che la comicità, l'obiettivo del sorriso dello spettatore è sempre stato un po' il tuo filo conduttore, no? Che cosa pensi di un tuo collega come Paolo Villaggio? Beh, io con Paolo ho fatto una decina di film, dove in uno era Fracchia, la Belva Umana, quindi protagonista doveva essere lui all'inizio, io ero in partecipazione, poi siamo diventati due protagonisti, proprio perché la gente non lo sa, ma Paolo era uno che lasciava fare tutto sul set, perché non è mai stato geloso dei colleghi. Lui era il nome più grande di me, voglio dire, più conosciuto di me, però mi ha lasciato fare tutto, siamo due cialtroni, abbiamo inventato, fatto, e lui ci stava a tutti i giochi. Io da stamattina che sto vivendo questo così momento triste, perché con lui ci ho fatto i pompieri, pompieri 1, pompieri 2, Scuola dei ladri 1, parecchi film. Sì. Uno che mi è piaciuto molto, che abbiamo girato in Tunisia, io e lui soli, si chiama Come dura l'avventura, e alla fine morivamo tutte e due, per cui quando ci facevamo queste scene che dovevamo parlare in questa barca che andava alla deriva piano piano e sapevamo di morire, lui mi chiedeva durante gli intervalli: ma tu ci pensi ogni tanto alla morte? E me, certo che ci pensa. E lui, siccome era sempre scherzoso con me, diceva: non ti preoccupare, che poi due parole belle te le dico io, quando è il momento giusto vengo io. Dico: mi raccomando Paolo, adesso succede prima a me, di qualcosa di buono, di che ero intellettuale anch'io, non dire che io sono un cialtrone. No, va bene, ti faccio diventare intellettuale. C'era questo bel rapporto fra noi. Allora io da stamattina sto mirando a una cosa, vorrei rivolgermi a tutti i lettori magnifici delle varie università italiane. Voi mi direte: che c'entra con Paolo? Perché Paolo, a parte che aveva la cultura più di me sicuramente, ma a Paolo andrebbe oggi una grande laurea honoris pausa, non causa, pausa. Perché la cosa bella di Villaggio, sia nei Fantozzi e nei Fracchia che nei film che ha fatto con altri attori, e quindi faceva Paolo Villaggio, la cosa bella sua erano le pause. Io mi divertivo molto a osservarlo, a guardarlo, perché lui prendeva i tempi con queste smorfie che faceva, prendeva il tempo nel suo cervello a dire: adesso rispondo a questo, quindi la tecnica sua nella pausa era eccezionale. Ecco perché ho detto: perché non facciamo una nuova laurea, invece che honoris causa la chiamiamo honoris pausa, così si dà agli attori e ai politici. Potrebbe essere un'idea, no? Lino, io spero che questo appello sia ascoltato effettivamente, proprio perché per tutto quello che hai raccontato, per quello che diciamo, che è stato detto oggi, effettivamente Villaggio col suo Fantozzi, con i suoi personaggi, è stato uno che ha lasciato davvero il segno, e questa tua proposta potrebbe essere effettivamente un'ottima idea. Speriamo che non siano soltanto seriosi, no, i docenti, i rettorati eccetera, ma che anche con serietà e con leggerezza prendano seriamente la tua proposta. Grazie di questo bel ricordo, Lino Banfi. Sì, gli ho mandato un saluto stamattina dicendo tramite Facebook: io non ci capisco niente di quelle cose, ma i miei figli mi dicono: guarda che qui ci sono state un milione, tante, tutte cose che io non so, però mi fa piacere esserci lì. E gli ho mandato un saluto dicendo: Paolo, ma come, dovevamo fare un film drammatico adesso e te ne sei andato così all'improvviso. Comunque, quando vai lì, comincia a conservarmi un posto, ma con molta calma, non c'è fretta. Questo l'ho mandato come saluto. Aspetta un po' di anni, poi ti avverto io al momento opportuno. E quindi è stato un bel saluto, la gente si è commossa, mi rispondevano in molti, hanno risposto a questo dicendo ma no, tu devi campare tanto, è stata una grande perdita di Paolo, ma c'era un bel rapporto fra me e lui. Questo è chiarissimo dal tuo racconto, la tua testimonianza, speriamo che abbia anche raggiunto il tuo messaggio Paolo Villaggio. Grazie Lino Banfi. Ciao Lino. Grazie a tutti. Grazie. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. Ma sono povera moglie anche di Fantozzi. Con il nostro Franco D'Assisti, il nostro grande critico cinematografico, vi ricordo con la sua Rosa Purpurea tutti i sabati alle 18 su Radio 24. Caro Franco. Cara Roberta. Sentivi il ricordo di Lino. Siamo svegliati un po' più soli, diciamo sì. Così. No? Non abbiamo più il nostro nume tutelare che ci... sentire meno sfigati di quello che siamo. Tra l'altro bisogna dire, Franco, che continua ad andare con grande successo da sempre, no? I suoi film in TV, e lui diceva alla fine sono adatti anche ai giovani di adesso, talmente spaventati di quel nulla che vedono nel loro futuro che, raccontando del malessere, del disagio, insomma, si sentono parte anche loro. Assolutamente, lui aveva preconizzato la società del futuro. Guarda, io proprio oggi lì nei nostri archivi della Rosa Purpurea ci siamo messi a scartabellare, abbiamo ripescato un'intervista che gli feci nel 2009, una lunga intervista che, tra l'altro, lo dico già, riproporremo sabato alla Rosa Purpurea, quindi insomma ascoltatela, perché è un'intervista nella quale Paolo aveva parlato di tutto, aveva parlato di Fantozzi, aveva parlato della società italiana, dei giovani, di come era cambiato. Una visione molto lucida, no, lui, anche della società italiana. Assolutamente, sì. E diceva proprio questa cosa, cioè diceva che in fondo... già nel 2009, che sembra ieri, ma insomma sono passati i suoi begli 8 anni, la situazione era quella, cioè che quelle cose per le quali Fantozzi, come dire, veniva indicato come appunto l'emblema della serialità, della società di massa, io dico anche un po' un erede di un personaggio di Charlie Chaplin in qualche modo, no? Perché nel suo rapporto con le meccaniche del lavoro aveva questa cosa, gli ha appena fatto sentire questa splendida clip, no? In cui uno perfeziona per uscire alle 7:51. Ecco, questo essere figli della società di massa, della società industriale. Però diceva una cosa molto bella, Fantozzi alla fine era felice. Fantozzi era felice perché sentiva che intanto il posto di lavoro non lo perdeva. Lui ci aveva il posto fisso almeno, no? Sì, lui lo voleva, e nessuno gliel'avrebbe tolto. E in fondo lui scappava dai meccanismi del lavoro per cercare quelli che lo rendevano felice, ascoltare la partita alla radiolina, andare... con rutto libero, no? Esatto, il famoso rutto libero. Oggi, invece, diceva Paolo Villaggio, i ragazzi si trovano magari nelle stesse condizioni, ma non sono neanche più felici. Cioè, nel senso che non hanno più neanche quel tipo di sicurezze, diciamo, che dava quella società. E in questo Paolo Villaggio, in questo e in tante altre cose, era stato veramente molto lucido e grande analista di quello che sarebbe successo. Secondo te si è stati in genere riduttivi nel associare... No, Roberta. Secondo me no. Io da stamattina sento queste critiche, questa cosa, il cinema italiano l'ha dimenticato, sono tutte balle, cioè nel senso il cinema italiano e la gente e il popolo italiano ha, secondo me, decretato il più grande omaggio a Paolo Villaggio, perché Paolo Villaggio è stato in vita, ha avuto il modo di farsi riconoscere come l'attore anche di spessore drammatico che era, lavorando con Ermanno Olmi, Federico Fellini, eccetera. In vita è stato riconosciuto creatore di un'icona, di una maschera, cosa che era riuscita prima a Totò e pochi altri. Vero. Dire. E quindi tutto sommato io penso che Paolo abbia avuto dalla vita e dal pubblico quello che meritava, e meno male che è successo quando ancora Paolo ha potuto capire l'affetto che la gente prova per lui. Sempre nella stessa intervista lui ci raccontava che all'inizio minimamente ci pensava, quel 27 marzo del 75, quando è uscito il primo Fantozzi, non si immaginava che sarebbe successo. Questa esplosione di successo. Allora poi questa intervista... Fantozziano è nel dizionario, ragazzi. E ne parleremo tra pochissimo, infatti, con la linguista, di come anche ha cambiato il lessico italiano. Per il momento con Franco D'Assisti ci fermiamo qui, però poi lui lo risentite, come sempre, la Rosa Purpurea sabato alle 18 e anche il seguito di questa dal vivo, insomma, questa intervista con Paolo Villaggio. Grazie Franco, a sabato. Grazie Roberto, un abbraccio. Ciao. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Ah! Oh! I famosi congiuntivi di Fantozzi, no? Perché Villaggio è stato grande attore di cui abbiamo parlato finora, ma anche scrittore, autore tra grande cinema, TV, radio. E dicevo già prima che oltre a dare questa sua impronta indelebile all'immaginario cinematografico e anche, diciamo, la dimensione sociologica, ha anche fortemente inciso sul lessico, sui neologismi, no? Ha modificato il nostro modo di parlare in parte, perché chi è che non ricorda l'aggettivo mostruoso, agghiacciante, o la boiata pazzesca, riferita soprattutto alla corazzata Potionchi, il mega direttore con la poltrona di pelle umana, come umano lei, oppure la salivazione azzerata, la lingua felpata, la nuvola di Fantozzi, spesso ci ritroviamo, no? Diciamo, mi segue la nuvola di Fantozzi, per non dire poi il termine fantozziano, che ci confermerà la nostra linguista Valeria Della Valle, è entrato anche nel dizionario Treccani. Buonasera Valeria. Ciao Valeria. Buonasera, eccomi qua. Ricordo che Valeria, scusami Valeria, linguista, professoressa di linguistica italiana alla Sapienza di Roma, e in più coordina, quindi se non chiederlo lei a chi, con Giovanni Adamo, l'Osservatorio Neologico della Lingua Italiana, quindi neologismi. Infatti, è proprio così. E così sono veramente stasera dispiaciuta, naturalmente, da una parte, ma con un piccolo orgoglio, quello di aver registrato tra i primi, anzi per primi, l'aggettivo fantozziano proprio nel vocabolario Treccani, quando ancora c'era una certa resistenza a registrare nei vocabolari ufficiali della lingua italiana le nuove parole. Però fantozziano è un aggettivo del quale oggi non potremmo più fare a meno, no? Per indicare qualcosa di impacciato, di servile con i potenti, di tragicomico, di penoso, no? Ridicolo, tragicomico, e qua insomma, lo usiamo continuamente. E allora ecco che già solo per questo il nostro ricordo, la nostra riconoscenza va a tutto quello che Paolo Villaggio ha creato, ma con oltre ecco, a tutti i termini, a tutte le parole, a tutte le invenzioni linguistiche che hai ricordato, ecco io aggiungo un elemento, e che è questo: Paolo Villaggio rimarrà nella storia del cinema, nella storia della cultura, nella storia della letteratura, nella storia della lingua, un po' come gli altri grandissimi attori che l'hanno preceduto. Nomino i due precedenti, Petrolini e Totò. Mm. E Petrolini e Totò su che cosa hanno basato il loro successo? Proprio sulla invenzione, sull'originalità linguistica. E la stessa cosa è avvenuta per Paolo Villaggio. Ecco, quei congiuntivi sbagliati che tu ricordavi. Va, no? Di facci, va, dichi, va, si seghi. Vengi, va, di eschi. Ma ecco, sì, ci fanno ridere, no? Tutte le volte che rivediamo i suoi film continuiamo a ridere. Però hanno avuto una grande forza di impatto nella consapevolezza anche linguistica degli italiani, giocando, scherzando su quell'uso sbagliato. Cercando di fare un po' di mente locale, dire non devo dire così, perché ogni tanto è contagioso, così, no? Proprio così, però lo si fa sorridendo, non con supponenza, non con l'arroganza, non con il ditino alzato dei professori. E allora già per questo gli dovremmo grande e immensa gratitudine. E quindi io proprio lo vorrei ricordare, non è la mia competenza quella di ricordarlo come attore o come scrittore. È vero che lui, tra l'altro, uno oltre ai libri fantastici, divertenti e spiritosi con i quali emerse in letteratura, ricordo il libro intitolato proprio Midichi, no? Midichi, lì, che era il sottotitolo Prontuario comico della lingua italiana. Ecco, però io lo vorrei ricordare, come avevo detto prima, annoverandolo tra i grandi comici che nello stesso tempo però sono anche dei grandi osservatori della lingua italiana. Yeah. Ecco, lo metto proprio così là su una nuvola dei nostri geni tutelari, insieme a Petrolini e a Totò. Adesso c'è anche Paolo Villaggio, che però rimarrà nella storia dell'arte comica, nella storia del racconto e direi anche, aggiungo, nella storia della lingua. Grazie Valeria Della Valle e grazie naturalmente a Paolo Villaggio. A Paolo Villaggio soprattutto. Buonanotte. Ciao Valeria. Tu ci hai mai pensato al suicidio? Mai. Favorevole all'eutanasia? Certo. Per te la vorresti? Io sono favorevole, però non per me. Pensi mai alla morte? Non più. Come te la immagini? Il nero assoluto. Tu ricordi il ventre materno? No. La morte deve essere come rientrare nel ventre materno. Ci si deve preparare alla morte? No. Tu non ti prepari? Non ci penso neppure. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Abbiamo parlato molto della perdita, della scomparsa di Paolo Villaggio, con il nostro critico cinematografico Franco D'Assisti, ma poi con Lino Banfi, il suo ricordo personale di Paolo Villaggio, con cui ha fatto una decina di film, e poi anche, diciamo, il punto di vista linguistico, perché ci diceva la linguista Valeria Della Valle, effettivamente abbiamo enumerati, no, diversi neologismi che ha inventato Paolo Villaggio col suo ragioniere Ugo Fantozzi, veramente tanti, anche i congiuntivi sbagliati che ci costringono a riflettere ogni volta che ci verrebbe a dire dichi o vadi, eccetera eccetera. Adesso cambiamo tema. Tra pochissimo parleremo del caso del bimbo Charlie che viene dalla Gran Bretagna. Adesso però, se non avete acceso puntualmente, tra poco vi ricordo i fatti principali e ancora qualche vostro messaggio tra i vari. Andrea che dice, a proposito di Villaggio, le parole non bastano per esprimere un sentimento, solo il silenzio ci unisce al dolore che ci ha colpito in questo tragico, triste giorno. Questo tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Luca che mette un'espressione molto emblematica e classica di Ugo Fantozzi. Luigi dice il personaggio da lui interpretato nel film, dice quello preferito, La voce della luna, che se non sbaglio è di Fellini. E Salvatore scrive le risate con i suoi film, i tormentoni grazie ai suoi personaggi e il mesto e laconico giudizio espresso da suo figlio che mette in grassetto l'uomo Paolo. Bene, allora prima di passare al prossimo tema vi dicevo questi i temi, i titoli principali di oggi. Immigrazione. Francia e Spagna sono contrari a sbarchi nei loro porti. Bruxelles presenta domani nuove misure concrete sui migranti. Stati Uniti. Un'auto, un taxi ha investito un gruppo di pedoni all'aeroporto di Boston, provocando vari feriti. Non ci sono per il momento aggiornamenti. Il caso del piccolo Charlie, di cui parleremo tra poco. Per la politica italiana, alta tensione nel PD sulle alleanze. Renzi prepara la direzione di giovedì. Spagna. L'italiano 32enne trovato morto a Valencia, fermato un amico. E poi, appunto, addio a Paolo Villaggio, il geniale Fantozzi. La Camera Ardente sarà mercoledì in campionato. D'olio. E adesso occupiamoci del caso di Charlie, la storia dolorosa di questo bambino di 10 mesi, affetto da una grave malattia genetica, secondo i medici non guaribile, attaccato da tempo a delle macchine che lo tengono in vita e a cui i medici londinesi staccheranno appunto queste macchine, perché ritengono che non possa avere nessuna speranza di sopravvivenza. Questo contro la volontà dei genitori, che come saprete hanno praticamente fatto un appello, non solo in Gran Bretagna, è diventata una questione internazionale, un dibattito delicato, molto forte, che ha attraversato i vari confini, è arrivato anche in Italia, ha smosso pure la politica italiana, a volte in modo non proprio opportuno, ma insomma diciamo che ha avuto una fortissima risonanza sull'opinione pubblica mondiale, in questo caso di questo bimbo, perché ha attraversato un po' tutti i gradi di giudizio fino ad arrivare alla Corte europea, che ha detto d'altronde se i medici dicono che questo bambino ha subito delle gravi lesioni cerebrali, che è paralizzato, che soffrirebbe troppo andando avanti con questi macchinari, bisogna staccare la spina. Allora, è intervenuto oggi anche Trump, sempre via Twitter, il presidente americano, che ha detto: se possiamo aiutare il piccolo Charlie Gard come i nostri amici in Gran Bretagna, come il Papa, saremo felici di farlo. E dall'Italia, da Roma, si è fatto avanti l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, che vuole studiare la possibilità di accogliere il bambino. E ne voglio parlare con Mariella Enoch, che è proprio presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Dottoressa Enoch, buonasera. Buonasera. Quindi voi state valutando se ci siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie nel vostro ospedale? State facendo noi questo? Prima di fare questa dichiarazione abbiamo interpellato i medici dell'ospedale di Londra che hanno in cura questo bambino e abbiamo detto a loro la nostra disponibilità. Loro stanno valutando e ci daranno una risposta se questo trasporto è possibile, naturalmente consultandosi con i genitori. Chiaramente in questo ospedale non ci sono cure miracolose, quindi noi non illudiamo nessuno Il bambino può solo venire qui e i genitori essere informati, accompagnati, perché possono veramente decidere con grande libertà che cosa preferiscono che si faccia per il loro bambino. Se i genitori decidono di tenere in vita il loro bambino, pur essendo stati informati di tutto, benissimo, il bambino sarà tenuto in vita, c'è una macchina che gli apre e chiude i polmoni sostanzialmente, però i genitori potranno essergli vicino e saranno accompagnati in questo loro dolorosissimo momento. Noi più di questo non possiamo fare. Però lo facciamo non per il piccolo Charlie, perché oggi è sulle pagine di tutti i giornali, ma per tanti bambini di ogni parte del mondo. Quando c'è un bambino, il problema vero sono i familiari, i genitori. Il bambino, soprattutto quando è molto piccolo, non ha reazioni particolari, non può scegliere, non può decidere. Quindi bisogna veramente relazionarsi molto con la famiglia, stare loro molto vicino e spiegare loro qual è la situazione reale del piccolo e poi davvero lasciare a loro la scelta, perché è dei genitori la scelta. Dottoressa Enno, che la ministra della Salute Lorenzin ha detto: come governo noi non diciamo niente, non commentiamo, è una valutazione che attiene ai medici e alla famiglia, se dovesse arrivare in Italia daremo il supporto necessario. Quindi da questo punto di vista ha detto: se appunto dovesse arrivare, noi non ci saremo con tutte le risorse necessarie e il supporto. Però rispetto al fatto che sia i medici inglesi e sia i giudici hanno detto, nei vari gradi di giudizio, hanno detto che il bambino, lo fanno nel bene del bambino perché soffrirebbe o soffre troppo in questo modo. Lei che cosa pensa? Guardi, è molto difficile in questo momento parlare di accanimento terapeutico. Si ha accanimento terapeutico quando ci sono due situazioni. Uno è quello proprio del dolore, e in questo modo è molto difficile dire quanto il bambino soffre, anche se verosimilmente può soffrire. E l'altro è le cure, i farmaci. In questo caso al bambino non vengono dati farmaci particolari, è solo tenuto in vita da una macchina. La malattia del bambino è una malattia rarissima e gravissima, quindi le aspettative di vita non ci sono, però è il modo in cui la famiglia può decidere e accompagnare. Io credo che la famiglia, come avviene per tante tante famiglie che sono in questo ospedale, vada informata di tutto, anche dell'eventuale dolore che il bambino potrebbe avere, e poi però devono essere loro a poter decidere con libertà, in coscienza, con informazione corretta e sorretti anche da tanto amore, da tanta proprio compassione, ma nel senso migliore della parola, nel senso di patire con loro in questi momenti. Qui avviene per tanti e tanti bambini, quindi non è il caso del piccolo Charlie che ci ha sollevato le coscienze, ma è quello che facciamo che i medici fanno quotidianamente, e anche in questo caso ci siamo sentiti di offrire la nostra disponibilità. Il tweet del Papa, dottoressa Enno, che è stato decisivo per questa vostra iniziativa? Sì, il Papa certamente ci ha fatto molto ripensare, questo è il suo ospedale, e quindi noi abbiamo sentito quelle sue parole come una domanda fatta proprio anche a questo ospedale, e quindi questo è stato certamente uno dei grandi motivi che ci ha fatto fare questo passo e dare questa disponibilità. Benissimo. Quindi vedremo insomma se ci sarà nei prossimi giorni questo trasferimento. Intanto la ringrazio, dottoressa Mariella Enoch. La nostra direzione sanitaria, in attesa di avere notizie dalla direzione sanitaria. Mettiamo aggiornamenti allora. Grazie. Grazie, buona grazie serata. Allora, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme con ancora i vostri messaggi che ricordano Paolo Villaggio. Scrive per esempio Maurizio: quando sento il linguaggio fantoziano del facci lei oppure mi dichi, mi viene in mente mio padre che quando voleva parlare in italiano forbito strafalciava convintamente pur non apprezzando Fantozzi. Sono proprio 10 anni dalla sua scomparsa, mi piace ricordarlo anche così. E poi questa ascoltatrice, che è Paola Virginia, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, dice: lui è stato un interprete unico. Mentre Patrizio scrive: una maschera umana bellissima, resterà scolpita nel tempo per sempre a ricordare debolezze e ridicolo come non fossero nostri. Adesso però, mentre vi ricordo molto velocemente le notizie principali, passiamo a un altro tema. Le notizie, lo sapete, sono sull'emergenza migranti, il no di Francia e Spagna ad aprire i loro porti per gli sbarchi e poi l'addio a Paolo Villaggio, di cui abbiamo parlato tanto, tensione nel PD sul decreto banche, per Emiliano è invotabile, maggio nero per il lavoro in Italia, più disoccupati e meno occupati, la prima flessione da 8 mesi, l'ospedale Bambin Gesù, l'avete appena sentito, pronto ad accogliere il bimbo Charlie, e poi Trump che prepara il G20, vedrà Putin dopo il Russiagate. E ancora il 32enne, un ragazzo italiano ferrarese, trovato strangolato a Valencia in Spagna, un suo ex amico che lo aggredì fermato a Ventimiglia. Ci occupiamo adesso di ecomafia, ovvero i gravi reati ambientali legati alla criminalità organizzata che lucra sopra un business da 13 miliardi l'anno, da un anno all'altro. In realtà i reati ambientali sono un po' calati grazie alle norme sugli ecoreati che sembrano aver dato un po' i loro frutti, anche se i reati ambientali nel nostro paese proseguono al ritmo di 71 al giorno, 3 ogni ora. Così dice il rapporto Ecomafia 2017 di Legambiente. Allora subito chiamo in causa la presidente nazionale di Legambiente, che è Rossella Muroni. Buonasera Muroni. Buonasera a tutti. Quindi luci e ombre, sono calati rispetto allo scorso anno, al passato, però si parla di un bottino di 13 miliardi che va. Sì, nelle, esatto, certo, le ecomafie continuano, come dire, a vivere un momento florido nel nostro paese, lo dimostra il numero degli ecoreati. E però per la prima volta da 25 anni a questa parte noi possiamo portare un dato positivo, che è quello della contrazione generale dei reati, con invece un aumento delle denunce, dei sequestri, dei controlli, a dimostrazione che la nuova legislazione in atto da 2 anni, quella che cioè introduceva i reati ambientali contro l'ambiente nel codice penale, sta funzionando molto bene, perché finalmente viene affermato il principio che chi inquina paga, e anche caramente. Muroni, se dovesse fare qualche esempio di questi reati ambientali per andare Certo, tutto il tema legato ai rifiuti, l'abusivismo edilizio, i reati contro gli animali, contro i beni culturali, sono tutti fenomeni appunto che vedono nella qualità ambientale in qualche maniera un motivo di business da parte della criminalità organizzata, che purtroppo ha capito da molto tempo prima di noi che invece l'ambiente può essere un fattore di economia. Noi naturalmente vorremmo che lo fosse in maniera positiva, è per questo che oggi come Legambiente abbiamo parlato anche della risposta che lo Stato può dare, finanziando, favorendo soprattutto quell'economia, pensa all'economia circolare, che invece per esempio nella gestione dei rifiuti mette in piedi esperienze solide di economia legale che guarda al futuro, all'innovazione del paese. Anche il ministro della giustizia Andrea Orlando chiede l'attenzione dell'antimafia, quindi su questi reati, e per quanto riguarda le classifiche, Rossella Muroni, mi pare che purtroppo il sud sia sempre molto diciamo principalmente il sud, sì, stretto nella morsa dell'ecomafia, no? E la Campania, certo, è in testa a questa classifica, purtroppo. Certo, continua a esserci le tradizionali appunto regioni, quelle a presenza mafiosa più forte, sono purtroppo ancora in cima alla classifica, mentre alcune regioni del nord, pensa alla Lombardia, fanno registrare reati che legano le ecomafie a un reato e a un problema molto forte nel nostro paese, che è quello della corruzione. Quindi attenzione, perché poi in questi anni le ecomafie hanno cambiato anche molto il volto, si sono agganciate all'imprenditoria che delinque, ed è per questo che è stato fondamentale rafforzare lo strumento normativo, proprio per far fronte a questo saldamento tra corruzione e interesse della criminalità organizzata, che va spezzato. E io credo che noi siamo sulla giusta strada per dimostrare che questo è un paese che può guarire, può essere un paese normale. Lo speriamo. Poi vedevo ancora dalla classifica il Lazio è la prima regione del centro Italia quanto a reati ambientali, la Liguria è la prima del nord. Sì, la Liguria è la prima del nord, e lì c'è un tema legato in particolare all'abusivismo edilizio, che continua a essere un po' diciamo il nervo scoperto nel nostro paese, nel senso che negli ecoreati poi non è rientrata una norma specifica contro il cemento abusivo, invece è fondamentale, guardate, perché noi diciamo sempre che uno scheletro di cemento armato lasciato così com'è sulla spiaggia è la migliore o peggiore rappresentazione del fatto che lo Stato perde il controllo del territorio. È quello chiaro, scheletro va abbattuto perché va dimostrato che non è possibile nel nostro paese compiere atti di questo tipo. Rimanere impuniti. Grazie Rossella Muroni, presidente di Legambiente, grazie e buon lavoro quindi. Grazie a voi, a presto. E Paolo da Genova scrive: addio Paolo, mi hai fatto morire dal ridere per tanti anni, ricorderò sempre mentre leggevo il tuo Fantozzi, prima che uscisse il film avevo 13 anni e non riuscivo a smettere di ridere. Adesso ci fermiamo, vi aggiorno brevemente alle 22.